in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Questa settimana inizio parlando di noi giornali, noi mass media, o come, per non scontentare gli ascoltatori che dicono che non è giusto pronunciare una parola di origine latina come se fosse una parola inglese, quindi i mass media, perché sull'Economist è apparso un interessante articolo intitolato L'influenza dei giornali, che ha spiegato come con mezzi scientifici, con gli algoritmi che adesso si possono usare, l'analisi semantica che si può fare monitorando i social network, in questo caso in particolare Twitter, si può magari provare a capire quale sia, se esiste, l'influenza dei giornali, nel senso anche benevolo del termine. Non parliamo di manipolazione, ma semplicemente le conseguenze che una, sempre si spera, corretta informazione può avere sulla formazione delle opinioni di chi la sceglie. E vi leggo la prima parte. L'attivista per i diritti degli afroamericani Malcolm X definì i mezzi di informazione la più potente entità della Terra perché controllano la mente delle masse. Anche se gli studiosi del settore concordano sul fatto che i quotidiani esercitano una certa influenza sui lettori, quantificarne gli effetti è difficile. E qui appunto entra in gioco questa equipe dell'Università di Harvard che ha cercato di misurare l'impatto sull'opinione pubblica statunitense di articoli presi da una trentina di fonti basandosi sui commenti postati su Twitter. Naturalmente si scopre che poi l'importanza è che la fonte sia autentica, e poi anche la volontà forse di chi acquisisce delle informazioni di valutarle e magari di farsi di anche una seconda opinione, o l'ideale sarebbe una propria opinione basata su più fonti. E questo era appunto l'articolo dell'Economist. Poi vi segnalo, perché questa è una notizia che mi ha fatto impazzire, l'ho trovata anche su alcuni quotidiani italiani, in questo caso è ancora grazie a Internazionale che ve la posso segnalare, hanno fatto un trafiletto che si intitola Occhio di pecora, perché sulle riviste scientifiche, e in particolare quella che riporta i risultati della Royal Society Open Science, è apparsa questa notizia che le pecore riconoscono i volti delle persone. Gli animali riescono a riconoscere i volti anche se sono fotografati di tre quarti e non solo di fronte. Inoltre, senza addestramento, riescono a riconoscere il volto dell'allevatore nel 72% dei casi. E fino a oggi si pensava che la capacità di riconoscere un viso fosse tipica invece dei primati, cioè di noi Homo sapiens e di tutti i nostri parenti tra le scimmie, tra le scimmie piccole e grandi. Passiamo a un altro argomento, anche se io parlerei solo di animali e di altre cose un pochino più piacevoli. C'è questa questione, l'avrete sentita sicuramente, di questa grande inchiesta fatta da più giornalisti, più testate europee, che è un'inchiesta che è stata intitolata Paradise Papers, e in Italia ne ha pubblicato una parte l'Espresso, e su molti quotidiani stranieri è stata poi ripresa senza quel fenomeno che si verifica a volte, dove non si vuole riprendere l'articolo scritto da qualcun altro, ma qui il lavoro è talmente egregio, quello di questi giornalisti investigativi, è talmente importante l'argomento che appunto è stata proprio un eco che si è propagata in tutti i mass media. Per esempio su un quotidiano di Amsterdam che si chiama Trove, tra l'altro corredato da una vignetta molto divertente di Tommy Hansen, dove c'è la regina con uno dei suoi famosi cappellini, ma su questo cappellino c'è scritto Tax Haven, cioè paradiso fiscale. Si è scoperto che anche la regina Elisabetta ha dei soldi in questi paradisi fiscali. Molti naturalmente si chiedono se questa grande inchiesta avrà un seguito, se si provvederà a norme più severe per regolare i paradisi fiscali, o comunque per impedire a chi normalmente, perché residente in un altro paese, è sottoposto a un diverso regime fiscale, di trovare escamotage per portare poi in questi luoghi i propri patrimoni. Vi segnalo poi, questo invece è sempre grazie a Vox Europe, il sito che fa quest'opera di monitoraggio di tante pubblicazioni straniere sugli argomenti più diversi, anche se molto spesso si tratta di Europa, e in questo caso anche qui è un consorzio di giornalisti che fa questo egregio lavoro di raccogliere dati e poi cercare di dare a questi dati un senso. Parlo dello European Data Journalism Network, che appunto a volte insomma i numeri possono dire tanto ma possono anche dire poco, vanno in anzi innanzitutto elaborati nel modo giusto e poi spiegati, e in questo articolo, che si intitola Xenofobie e città europee, appunto partendo da tante fonti diverse statistiche, si scopre che tutto sommato, quando siamo costretti a osservare l'affermarsi di movimenti razzisti un po' ovunque in Europa, questo corrisponde sicuramente in certi paesi a un atteggiamento di una parte della popolazione, però guardando i dati, e qui sta il lavoro interessante di questo tipo di elaborazione delle statistiche, viene fuori che poi l'atteggiamento nei confronti degli stranieri è globalmente migliorato nelle città europee. Si legge in questa inchiesta, ripeto, che trovate su voxeurope.eu: nonostante la crescente influenza dei movimenti e dei partiti razzisti in Europa, nel complesso la xenofobia non è in aumento nelle città europee. Anzi, tra il 2009 e il 2015, e qui purtroppo devo sottolineare, mi sento obbligata a sottolineare, che restano fuori due anni, il 2016 e il 2017, in cui può anche darsi che le cose siano cambiate, perché c'è stata l'ondata, anche amplificata sicuramente da alcuni eventi fortemente mediatici, l'ondata di immigrazione clandestina. In ogni caso, appunto, tra il 2009 e il 2015 l'atteggiamento dei cittadini nei confronti degli stranieri è migliorato nella media. Cambiamo ancora argomento, questo è un po' il bello, se volete anche il brutto, di queste rassegne che concentrano tante suggestioni in pochi minuti, perché ci sono tante questioni europee politiche in questo momento. Come sapete, la Germania, che noi magari pensiamo sempre come solida, come seria, in realtà sapete che non riesce a darsi un governo, perché dalle ultime elezioni politiche è uscito un vincitore, sì, Angela Merkel con la sua CDU, ma non può governare da sola e quindi deve trovare una coalizione che non può essere quella della scorsa legislatura, perché la SPD, che ha perso parecchi voti, ha chiarito fin da subito che no, non vuole rifare quella che non vuole una riedizione della grosse coalizione. E molti giornali tedeschi, dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung a tutti gli altri, danno conto di tutte queste negoziazioni che ci sono e confermano che Angela Merkel non sarebbe spaventata da nuove elezioni anticipate. A proposito di grandi ritorni, invece Le Monde si è rimasto molto colpito da questo ritorno a tutti gli effetti di Silvio Berlusconi. Adesso, a parte la sentenza che arriverà tra parecchi mesi della Corte dei diritti di Strasburgo, che dovrà esprimersi sulla legittimità di quello che è successo in Italia, cioè secondo la legge Severino Berlusconi è stato dichiarato incandidabile, ma al di là di questo, scrive Le Monde, l'improbabile ritorno di Silvio Berlusconi è una, scrive Le Monde, a 81 anni prosegue appunto il quotidiano parigino, il cavaliere approfitta delle divisioni della sinistra, ma il suo partito è sotto pressione. Per Le Monde si tratta del più inverosimile dei comeback politici. Come ai tempi della sua conquista del potere, Berlusconi è ridisceso in campo, sembra essersi perfettamente rimesso dalla sua operazione al cuore del 2016, moltiplica i soggiorni per mettersi in forma nella stazione termale di Merano, ai piedi delle Dolomiti, e fa bella mostra ad ogni apparizione della stessa abbronzatura. C'è sicuramente, lo ricordiamo, Le Monde è un quotidiano di centrosinistra e credo non abbia mai avuto simpatie per Berlusconi e il centrodestra italiano, ma c'è comunque una sorta di, non direi malcelata, perché proprio non lo è, ma quasi di invidia e di ammirazione, ma credo che la proviamo tutti, insomma, avere quell'energia a 80 anni compiuti e con tutti i guai fisici e non solo che ha avuto Silvio Berlusconi è una cosa da ammirare forse, o da invidiare magari. Un altro articolo che vi segnalo, tornando alla mia amata scienza, l'ha pubblicato il New Scientist ed è, si intitola Scherzi del cervello, anche questo l'ha tradotto internazionale, e parla di una cosa che io, che ho compiuto da poco 48 anni, che quindi qualche segno dell'età comincio a mostrarlo anche nei miei neuroni, che sapete vanno diminuendo nel corso degli anni, e questo articolo comincia, appunto, dice: dimenticare per qualche motivo, per quale motivo siamo entrati in una stanza, ridere per una brutta notizia, non riuscire a dare un significato alle parole, sembrano comportamenti senza senso, ma in realtà sono il frutto di inciampi normali dell'attività festa celebrale, consoliamoci così. Ultimissima notizia, perché l'ho trovata interessantissima, un articolo di quello stesso quotidiano di cui ho citato la vignetta sulla regina Elisabetta, Truv di Amsterdam: i partiti femministi avanzano in Scandinavia. Secondo, infatti, anche nella regione, lo sappiamo, la Scandinavia con la più elevata parità di genere al mondo, c'è ancora molto da fare per raggiungere l'uguaglianza tra uomini e donne. E così si riaccende il dibattito, e qualsiasi dibattito civile è sempre benvenuto, anche quando sembra che le questioni siano risolte, si può sempre migliorare su qualsiasi cosa quando sono coinvolte più di due persone e più di due interessi. Quindi era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.